Mi dispiace per il modo come ti ho trattato oggi. Non far caso a quello che dico quando sono insieme ai compagni. Nessuno, nessuno di noi è sincero. Già. Perché mi hai baciato? Perché mi andava. Hai le labbra morbide. Dove vai? Non possiamo star qui. Io so una cosa sola. Non mi va ad andare a casa. Io non ci tornerò mai più.